Presentiamo quest'anno, certo, in un clima di forte ambiguità e incertezza. Devo dire, è stato un anno difficile sotto molti aspetti. Però voglio dire subito che questa ambiguità, questa incertezza, questo clima sociale in cui oggi siamo immersi dipende innanzitutto da due profonde, cocenti delusioni che quest'anno la società, il corpo sociale ha scontato. C'è una prima forte delusione sicuramente da riferire al fatto di aver visto sfiorire la ripresa. Quella ripresa che pure era stata vigorosa, sostenuta lo scorso anno, fino anche ai primi mesi di quest'anno. La prima cocente delusione è per aver visto una ripresa rispetto alla quale si erano riposte molte attese, che di fatto è svanita sotto i nostri occhi. E c'è una seconda disillusione molto forte, quella riferita a quell'atteso cambiamento miracoloso a cui si era stato attribuito addirittura un valore taumaturgico. Beh, un cambiamento miracoloso che di fatto non si è compiuto. La palingenesi non c'è stata. Ecco, queste sono le due principali ragioni, le due principali cocenti delusioni che condizionano il clima sociale. E rispetto alla prima, la delusione per una ripresa che è svanita, i dati, tutti gli indicatori economici al terzo trimestre dell'anno non lasciano dubbi. Il PIL ristagna, addirittura nel terzo trimestre dell'anno è tornato in territorio negativo, meno 0,1% dopo 14 trimestri consecutivi di espansione. Quindi un meno 0,1% che riduce la crescita tendenziale, cioè rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente soltanto un più 0,7%, il che evidentemente obbliga a rivedere al ribasso le previsioni di crescita a fine anno. Il PIL ristagna. Vedremo nei prossimi mesi se si tratta di una flessione riferita al terzo trimestre oppure se invece di fronte avremo un nuovo ciclo, una nuova fase recessiva. I consumi delle famiglie non ripartono. Al terzo trimestre la crescita è stata pari a zero, soltanto un piattissimo, più 0,5% su base annua. La produzione industriale, l'indice della produzione industriale che l'anno scorso si era dimostrato molto vivace, molto dinamico, ha cominciato a flettere, meno 0,2%. E anche l'export, che aveva continuato a correre in tutto il decennio di crisi, che è l'elemento, il fattore principale pure della ripresa che abbiamo avuto lo scorso anno, anche l'export, dove pure le nostre migliori filiere produttive hanno continuato a brillare nei mercati internazionali, anche l'export ha notevolmente rallentato nel terzo trimestre, più 1,2%, soltanto più 0,8% su base annua, risente naturalmente del raffreddamento della congiuntura internazionale. La dinamica delle retribuzioni rimane bassissima, sicuramente insufficiente ad innescare un rilancio della domanda interna, che è il fattore che è mancato sicuramente nella ripresa che pure l'anno scorso si era verificata. Le retribuzioni sono cresciute soltanto dello 0,8% nel terzo trimestre, lo stesso di conseguenza vale per l'inflazione, modestissimo più 0,6%. E gli investimenti, come anche le compravendite immobiliari, che pure l'anno scorso hanno dimostrato una grande dinamica, probabilmente tutta da ricondurre all'azzeramento degli impieghi che si era verificato nel decennio di crisi, anche gli investimenti al terzo trimestre sono scivolati in campo negativo, meno 1,1%. Evidentemente le imprese hanno smesso di investire nel rinnovo degli impianti, che invece l'anno scorso, anche sulla scia degli incentivi del piano Industria 4.0, l'anno scorso era stato da questo punto di vista molto significativa la componente degli investimenti privati. Quindi dal punto di vista della delusione per una ripresa che è svaporata sotto i nostri occhi, gli indicatori sono tutti evidenti e concordanti. Per quanto riguarda la disillusione per l'atteso cambiamento miracoloso, qui basti un dato: oggi più della metà degli italiani, il 56%, afferma che non è vero che in Italia le cose hanno cominciato a cambiare sul serio. E allora quel rancore che l'anno scorso avevamo utilizzato come chiave interpretativa della situazione sociale del paese, quel rancore che pure si era in qualche modo depositato nelle urne alle ultime elezioni del 4 marzo, oggi sconta questa doppia delusione. Ed è per questi motivi, guardate, che nei mesi scorsi gli italiani, gran parte del corpo sociale, si erano dimostrati in qualche modo ad alzare l'asticella, cioè si erano resi disponibili a compiere un salto rischioso, anche dall'esito incerto, quasi, abbiamo scritto, quasi un funambolico camminare su un ciglio di un fossato che non si era mai visto così, da così vicino, se poi la scommessa era quella di spiccare il volo. E non importava se si rendeva necessario, in ragione di questo, anche rompere i tradizionali schemi sul piano politico-istituzionale, a cominciare dalla messa in stato d'accusa di Bruxelles e della Commissione europea. E non importava se da questo punto di vista serviva anche rompere la continuità negli schemi di gestione delle finanze pubbliche. È stata quasi, nei mesi scorsi, una ricerca programmatica del trauma, purché l'altrove vincesse sull'attuale. E questo avveniva in un silenzio, direi, arrendevole da parte delle élite, se si fa eccezione per qualche sporadica e anche, lasciatemelo dire, tardiva manifestazione che abbiamo visto negli ultimi tempi. E questa è una reazione prepolitica che ha profonde radici sociali, cioè commetteremmo un grave errore se continuassimo a spiegare questo tipo di fenomeni pensando che si tratti soltanto di un fatto di percezione. No, noi sosteniamo che è una reazione prepolitica che ha profonde radici sociali, che hanno alla fine alimentato una sorta di sovranismo psichico, lo abbiamo definito così, prima ancora che politico. È un sovranismo psichico che talvolta può addirittura assumere i profili paranoici della caccia al capro espiatorio, quando la cattiveria, dopo e oltre il rancore, diventa la leva cinica di un presunto riscatto, e questa cattiveria si dispiega in una conflittualità latente, a bassa intensità, pulviscolare, individualizzata. Abbiamo centinaia di casi di cronaca che ce lo raccontano. E io credo, da questo punto di vista, che dobbiamo anche un po' rivedere il nostro catalogo. Abbiamo sempre parlato, anche noi Censis, delle imprese politiche populiste, no? I leader politici con una tanica di benzina in una mano e il cerino acceso nell'altra, pronti a infiammare il popolo. No, commetteremmo un errore se non capissimo che qui ci sono delle profonde radici sociali che alimentano questo sovranismo che è installato nella testa e nei comportamenti di gran parte degli italiani. Quindi è un sovranismo psichico prima ancora che politico. Il processo strutturale chiave che dal nostro punto di vista spiega questa situazione è sicuramente la mancanza delle prospettive di crescita individuali e collettive. Voglio darvi un dato che è abbastanza impressivo. Nell'Unione Europea, in Italia, registriamo la quota più bassa di cittadini che affermano di aver migliorato le proprie condizioni socio-economiche rispetto a quelle dei genitori. Soltanto il 23%, contro una media europea riferita ai 28 paesi del 30%, con un abisso di distanza dal 43% della Danimarca, il 41% della Svezia, e valori molto più alti anche a paesi più simili al nostro, come il 33% della Germania. Ancora di più, il 96% degli italiani con un basso titolo di studio e l'89% delle persone che possono contare soltanto su redditi bassi sono convinte che resteranno nella loro condizione attuale, ritenendo irrealistico di poter diventare benestanti nel corso della propria vita. In più ci si sente soli, se è vero che oggi più del 63% degli italiani è convinto che nessuno ne difende gli interessi e l'identità. Un dato peraltro che sale in maniera macroscopica al 72% tra chi possiede un basso titolo di studio e al 71% tra le persone a basso reddito. È il rovescio del miracolo italiano. In questi casi il sogno si è tramutato in incubo. È una talpa che scava nella storia e che continuerà a scavare nella storia finché non ci saranno delle risposte concrete che cambino la materialità della vita delle persone. E qui l'errore anche di gran parte delle formazioni politiche che liquidano la questione a un fatto puramente percettivo. Anche perché il rancore, la cattiveria, diciamo, quest'anno, diventa poi insopportazione per gli altri, fino a sdoganare dei pregiudizi che fino a poco tempo fa erano veramente inconfessabili. Oggi, se 70% degli italiani non vorrebbe avere come vicini di casa persone rom, il 69% persone con dipendenze da droghe o alcol, il 52% è convinto che si faccia di più per gli immigrati che per gli italiani. E quindi non può stupire che rispetto al futuro, oggi due terzi degli italiani, il 67%, scrutano l'orizzonte con paura e delusione o incertezza, e soltanto un terzo invece si dice ottimista e fiducioso rispetto alle prospettive future. Siamo quindi una società in cui cresce un radicale bisogno di sicurezza, ed è questo finisce anche per minacciare quella concezione di società aperta che avevamo costruito negli ultimi decenni. Il 63% degli italiani vede in modo negativo l'immigrazione da paesi extracomunitari, contro una media europea che è molto più bassa, 52%. Il 45% ha addirittura un atteggiamento negativo verso l'immigrazione da paesi comunitari, contro una media europea bassissima, solo il 29%. I più ostili verso gli extracomunitari sono i segmenti sociali più fragili. Il dato sale al 71% tra chi ha più di 55 anni, il 78% tra i disoccupati. Ma voglio dire di più, il 58% degli italiani pensa che gli immigrati sottraggano posti di lavoro ai nostri connazionali. Il 63% pensa che rappresentano un peso per il nostro sistema di welfare. Il 75% pensa che fanno aumentare il rischio di criminalità. E per il futuro non ci sono grossi miglioramenti da attendersi, se è vero che il 59% degli italiani è convinto che di qui a 10 anni la situazione da questo punto di vista non migliorerà e non ci sarà un buon livello di integrazione tra etnie e culture diverse. E allora noi in questi casi poi, per avere evidenze oggettive, facciamo una cosa di solito, cioè guardiamo quello che succede dal punto di vista dei consumi, perché i consumi sono sempre un termometro molto utile, perché, come dire, un termometro rivelatore, perché affonda nella materialità della vita quotidiana delle persone. Beh, allora da questo punto di vista, il potere alla fine del 2017 segnava la liquidità, quindi soldi in contanti ottenuti fermi sui conto correnti, segnava ancora un incremento in termini reali del 12,5% rispetto al 2008, un incremento molto più alto rispetto all'aumento complessivo del portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie, che segnava soltanto un più 4,4%, e la forbice nei consumi tra diversi gruppi sociali, che già è molto consistente, ha continuato ad allargarsi. Negli ultimi 3 anni le famiglie operaie hanno registrato una riduzione dell'1,8% in termini reali della spesa per i consumi, quelle per gli imprenditori un incremento del 6,6%. Se poniamo uguale accento la spesa media delle famiglie italiane, le famiglie operaie si collocano a 72, quindi molto più in basso della media, e erano a 76 nel 2014, quindi sono ulteriormente scese. Quelle degli imprenditori si collocano a 123 ed erano a 120 nel 2014, quindi sono ulteriormente salite. E allora da questo punto di vista, nei consumi quello che vince è una raziocinante ricerca di un egolatrico compiacimento, cioè in questo fortissimo setaccio, in questa opera di intelligente selezione, vincono soltanto quei beni, quei prodotti, quei servizi che riescono a suscitare, a stimolare un piacere, un compiacimento fortemente soggettivo. Tutti gli altri sicuramente non riusciranno a scongelare questa liquidità che in termini cautelativi gli italiani continuano a mantenere. E questo setaccio sicuramente lo superano i consumi digitali, perché invece i processi di disintermediazione digitale continuano inarrestabili a battere nuovi record anno dopo anno. Oggi il 78% degli italiani utilizza internet, il 74% gli smartphone con connessioni mobili, il 72% i social network, con una perfetta logica di sovrapposizione tra questi dispositivi della disintermediazione digitale. Nel caso dei giovani naturalmente si arriva a quote intorno al 90%. E se pensate che i consumi complessivi delle famiglie nell'ultimo anno non sono ancora ritornati ai livelli pre-crisi, perché segnano ancora un meno 2,7% rispetto al 2007, beh, la spesa per telefoni però è più che triplicata. Più 221%. Abbiamo speso nell'ultimo anno 23,7 miliardi di euro per cellulari, servizi di telefonia e traffico dati. E allora questi processi però di inarrestabile disintermediazione digitale alla fine ci hanno fatto diventare una società neanche senza più miti ed eroi. Abbiamo anche i divi del passato, li abbiamo gettati nel disincanto del mondo. Cioè abbiamo scritto uno vale un divo oggi. Abbiamo cioè finito per sacrificare ogni mito, ogni divo, ogni eroe sull'altare del soggettivismo, che non era mai stato prima d'ora così esaltato dalla tecnica alla portata di tutti, questa celebrazione digitale dell'io. Oggi la metà della popolazione è convinta che oggi chiunque possa diventare famoso, un terzo ritiene che la popolarità sui social network sia un ingrediente fondamentale per essere una celebrità al pari del talento o delle competenze acquisite con lo studio. Un quarto però dice che i divi semplicemente non esistono più e comunque soltanto uno su 10 si ispira ai divi, diciamo così, come a modelli di riferimento. Però guardate che accorciando la distanza dai divi o uccidendo i divi o addirittura sostituendosi ai divi, si finisce per accorciare quell'arco proiettivo di tipo imitativo, aspirazionale, che in passato era invece un elemento fisiologico e utile nella società che cresceva, perché significava spinta in alto e in avanti. Oggi, accorciando quest'arco proiettivo, abbiamo finito anche appunto uccidendo ogni divo per accorciare questo arco proiettivo. Analogamente è avvenuto anche un salto d'epoca nella funzione della politica. C'è stato un prima e c'è un dopo nella funzione della politica. Prima la politica serviva naturalmente con il sistema dei partiti, anche grazie alle cinghie di trasmissione di partiti con la società. La politica serviva a condensare, raccogliere, catalizzare le istanze, i bisogni, i desideri, i sogni dei cittadini e accompagnarli in questo assalto al cielo, diciamo così. Naturalmente doveva accompagnare questa funzione di crescita, di miglioramento delle proprie condizioni, il proprio benessere e le condizioni materiali. Oggi al massimo la politica serve come difesa delle trincee in basso. Si è rotto cioè quel gioco combinatorio tra interessi e identità che si proiettava nella domanda politica.